Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio e buona giornata a tutti. Domani si svolgerà la 20ª edizione di Telefisco, l'annuale appuntamento del Sole 24 Ore, nel corso del quale per un'intera giornata vengono spiegate tutte le novità di natura fiscale della manovra finanziaria. 54 sedi collegate in tutto il paese, la partecipazione del ministro dell'economia Giulio Tremonti, del direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera e del presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti Claudio Siciliotti. Per lanciare l'appuntamento di domani, anche noi di Salva Danaio abbiamo deciso di approfondire oggi un tema di natura fiscale al quale abbiamo già dedicato una trasmissione a metà gennaio, ma ci sono anche altri aspetti da chiarire, perché in quell'occasione ce n'erano rimasti alcuni in sospeso, ma soprattutto il tema aveva suscitato grande interesse da parte degli ascoltatori, per cui abbiamo ritenuto opportuno ritornarci. Parliamo di nuovo di strumenti di accertamento del reddito e quello che ci interessa capire è come funzionerà a partire dal prossimo mese di maggio lo spesometro, quella lente di ingrandimento sui comportamenti di spesa dei contribuenti non giustificati dal reddito e che pertanto rendono necessario un accertamento. Cosa succederà nella sostanza? Che a partire da maggio tutte le spese che i privati sosterranno e che ammonteranno ad una cifra superiore a 3.600 euro comporteranno il dover comunicare contestualmente all'acquisto il relativo codice fiscale. Obiettivo: in un certo modo schedare tutti i consumi superiori a certe cifre e combattere l'evasione fiscale. Tutto questo mentre sta per partire il nuovo redditometro e contestualmente prosegue l'attività di Serpico e Perseo, gli strumenti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. E oggi ci interesserà capire anche come si mettono in relazione le attività di tutti questi strumenti. Buongiorno e grazie di essere ritornato con noi a Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno. E ringrazio anche per essere ritornato a Salva Danaio, sempre per trattare questo argomento, Nicola Forte, consulente tributario in Roma ed esperto per il Sole 24 Ore. Dottor Forte, bentornato, buongiorno. Buongiorno. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Ci potete anche scrivere i vostri messaggi al 349 238 6666 o le vostre mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. La borsa, prima di partire, borsa Valderina oggi perché era partita molto bene e poi sono stati azzerati tutti i guadagni di tutte le piazze, anche se adesso ritornano un po' di acquisti. Allora, particolarmente Valderina Francoforte, che in avvio guadagnava più di mezzo punto, poi ha bruciato tutto, adesso ritorna a guadagnare lo 0,4%. Dopo aver bruciato il mezzo punto percentuale di guadagno, Parigi si ferma sulla parità. Londra, dopo il dato sul prodotto interno lordo del quale vi abbiamo parlato nel giornale radio, nell'ultimo trimestre dello scorso anno, PIL in calo di mezzo punto percentuale, un dato assolutamente inatteso che si è riflesso anche sul mercato valutario. Euro su dollaro adesso a 1,3617, mentre stamattina l'euro ha fatto un balzo sull'euro a 1,3687. Milano guadagnava mezzo punto in avvio, è arrivata a perdere un punto percentuale, adesso ancora mantiene un ribasso dello 0,85%. La colpa ancora una volta è tutta delle banche, i peggiori titoli in assoluto. Monte dei Paschi meno 3,81%, Intesa San Paolo meno 3,31%, Finmeccanica meno 3, Banco Popolare meno 2,83%, Azimut meno 2,74%, Popolare di Milano meno 2,69%, STM, il mercato boccia i conti, il titolo perde il 2,51%, Unicredit meno 2, Ubibanca meno 1,87%, Mediobanca meno 1,27%. In rialzo invece oggi tutta la galassia Fiat, ormai tre titoli del gruppo Lingotto viaggiano sempre nella stessa direzione, dopo aver perso parecchio terreno negli ultimi giorni, oggi recupera abbondantemente. Fiat Industrial più 3,57, Fiat SPA, quindi l'auto, più 2,89, Exor più 2,67, il mercato premia i conti di Luxottica più 1,60, Fondiaria sotto i riflettori più 2,40% nel giorno in cui si riunisce l'assemblea dei soci della controllante Premafin per varare l'aumento di capitale da 250 milioni di euro, e Luxottica condiziona bene anche Bulgari, che guadagna l'1,82%. Oggi molti dati dagli Stati Uniti, ma soprattutto il discorso sullo Stato dell'Unione di Barack Obama, e direi che possiamo lasciare il mercato per andare al tema di stamattina. Per lanciare Telefisco oggi abbiamo scelto di ritornare a parlare degli strumenti di accertamento del reddito a partire dallo spesometro. Dopo Serpico, Perseo e finanzieri virtuali, nel 2011 la lotta all'evasione fiscale si arricchisce di due nuovi strumenti: il nuovo redditometro e lo spesometro. Per sconfiggere gli evasori, infatti, il fisco cercherà di misurare la capacità di spesa dei contribuenti partendo dal reddito. O, viceversa, stabilire il reddito sulla base delle spese sostenute. Il nuovo redditometro è ormai alle fasi finali dell'elaborazione e a breve dovrebbe essere messo a disposizione delle associazioni di categoria per una sperimentazione diretta. La determinazione del reddito complessivo, con questo nuovo strumento, avviene intrecciando i dati soggettivi, territoriali e gli indici personali di capacità contributiva e confrontando questi dati con il campione significativo di riferimento. Lo spesometro, invece, altro non è che un sistema informatico che consente al fisco di controllare le spese effettuate dai singoli cittadini e attivare gli accertamenti fiscali sui potenziali evasori. Tradotto in termini pratici, più sono i consumi di un determinato contribuente, maggiore deve essere il suo reddito per poterli sostenere. Ecco perché chi effettuerà acquisti superiori alla soglia stabilita, vale a dire 3.600 euro, dovrà comunicare al commerciante o all'impresa venditrice il proprio codice fiscale. Sarà Benedetto Santa Croce domani ad affrontare il tema del redditometro, le indagini finanziarie, collegamenti e strategie difensive. Marco Bellinazzo, insomma, il biglietto da visita di Telefisco edizione numero 20, domani a partire dalle 9, sede centrale come sempre a Milano, Hotel Marriott se non ricordo male, ministro Tremonti collegato da Roma. E tu invece vai a Napoli, se non sbaglio. Io sono a Napoli, sì. Sì, perché praticamente sono 54 le sedi collegate per questo appuntamento, 12 delle quali presidiate da colleghi del Sole 24 Ore. Un record di sedi collegate e anche di partecipanti, segno che l'interesse su queste materie è sempre vivo e quest'anno ancora più accentuato, perché sono tante le novità che entreranno in vigore e soprattutto si tratta di novità che avranno un impatto di massa su tutti i contribuenti, in particolare i piccoli, normali contribuenti, mi viene da dire, che dovranno in qualche modo cambiare il proprio comportamento fiscale, essere molto più attenti, proprio perché la lente di ingrandimento del fisco sarà sempre puntata ormai sulle tasche di ciascuno. E allarga anche proprio il suo diametro. Tra l'altro ricordo che Radio 24, in occasione appunto dell'appuntamento annuale con Telefisco, dedicherà all'iniziativa un Radio Day, una programmazione speciale, quindi collegamenti dalla sede di Milano in particolar modo tutte le ore, proprio per spiegare tutte le novità fiscali delle quali si sta parlando. Allora Marco, l'ultima volta che ti abbiamo invitato era proprio per parlare degli strumenti di accertamento del reddito. Avevamo focalizzato la nostra attenzione su questi finanziari virtuali, come li abbiamo definiti, Serpico e Perseo. Perseo è lo strumento di accertamento della Guardia di Finanza, Serpico è quello dell'Agenzia delle Entrate. Come si mettono in relazione con redditometro e spesometro? Beh, io partirei da questo tipo di valutazione. Ora non bisogna spaventare i contribuenti con tutti questi nomi altisonanti e questa miriade di banche dati e di controlli che si preparano. Il concetto è questo: fino a qualche anno fa esistevano tante banche dati scollegate tra di loro, e quindi per controllare la posizione di un singolo contribuente i finanzieri o i funzionari dell'Agenzia delle Entrate dovevano consultare tutte queste banche dati e poi metterle in relazione. Oggi, grazie all'informatica, alla tecnologia, all'amministrazione finanziaria ha una sola banca dati, quindi basta inserire il nome, il codice fiscale di un contribuente e immediatamente vengono fuori tutte le spese tracciabili e tutta quella che è la parte di reddito emersa o dichiarata. Sulla base di questo poi ci sono i vari canali, Perseo, Serpico, ne abbiamo tanto parlato. Redditometro e spesometro sono due modalità di accertamento che l'Agenzia delle Entrate per il momento dice saranno alternative. Quello che è importante dire, ne abbiamo parlato preparando la trasmissione, che dovranno essere soprattutto i piccoli contribuenti quelli che dovranno prestare attenzione ai propri comportamenti, in particolare conservare tutta la documentazione in modo da poter dimostrare, qualora saranno chiamati dal fisco a dare spiegazioni, quella che è la propria situazione di reddito prodotto annualmente e di risparmio accumulato negli anni precedenti. Perché quello che si verificherà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, è che le varie sedi territoriali dell'Agenzia delle Entrate potranno chiamare i contribuenti a dare spiegazioni in una sorta di contraddittorio informale sulle anomalie che verranno registrate da queste banche dati. Quindi non bisogna avere paura, anomalie che potranno essere assolutamente facilmente dimostrabili e spiegabili. L'importante, ecco, che il cambiamento dell'abitudine venga non perché adesso non dobbiamo più fare un acquisto importante se ne abbiamo la capacità, ma conserviamo tutto quello che dimostra come ci siamo comportati, appunto per poterlo poi dimostrare all'Agenzia delle Entrate. Allora, io tra l'altro tra un po' devo già andare in pausa, ma almeno a Nicola Forte 30 secondi di tempo devo concederli per farci raccontare, magari visto che questo è l'ultimo nato, lo spesometro come strumento di accertamento del reddito, qual è la normativa di riferimento Forte per chi volesse approfondirne origini e termini? La normativa di riferimento è la cosiddetta manovra correttiva, un decreto legge, il numero 78 del 2010, approvato appunto nel corso dell'ultima estate, e successivamente si è data concreta attuazione a questa disposizione, quindi delineando quelle che sono le caratteristiche di questo strumento, lo spesometro, con un successivo decreto direttoriale, un decreto appunto dell'Agenzia delle Entrate del 2010, il decreto protocollo 18-41-82 di fine dicembre del 2010. Insomma, quindi anche proprio gli accaniti della, come dire, di tutti i parametri, i termini legislativi stamattina sono stati accontentati, perché guarda, Marco infatti mi guardava quando ho fatto a Nicola Forte questa domanda, ti assicuro che ci scrivono un sacco. Una volta una persona mi ha contestato: voi la Radio del Sole 24 Ore non avete dato il termine legislativo preciso di questa cosa di cui si sta parlando. Abbiamo accontentato tutti stamattina. Tra un attimo accontentiamo anche Laura dalla provincia di Venezia, che è la prima ascoltatrice pronta con una domanda. Adesso però andiamo in pausa. 800 24 00 24, continuate a prenotarvi, vi ascolteremo tutti, o almeno gran parte di voi, tra pochissimo. Domani c'è Telefisco, l'iniziativa, l'appuntamento annuale del Sole 24 Ore per spiegare a tutti i commercialisti d'Italia e professionisti le novità fiscali della manovra finanziaria, 20ª edizione, 54 sedi collegate. Noi anticipiamo alcuni degli argomenti di cui domani si parlerà. Ne abbiamo scelto uno che avrà un discreto impatto fra le abitudini dei contribuenti italiani, cioè l'applicazione dello spesometro, questo nuovo strumento di accertamento del reddito che in sostanza metterà a confronto reddito percepito e le abitudini di spesa degli italiani per verificare se ci sia ovviamente congruenza. Marco Bellinazzo, come si dice? Non mi viene mai quello corretto. Diciamo qualsiasi tema, diciamo. L'importante è che ci sia coerenza. Coerenza, ecco, bravo, tagliamo la testa al toro. Proporzione tra le due misure. Benissimo, cominciamo a sentire anche le domande degli ascoltatori e ovviamente, come già avevamo immaginato, ci chiamano i piccoli contribuenti che già temono di essere potenzialmente, come dire, nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate perché sono in procinto di fare un acquisto importante per la propria famiglia, come per esempio Laura, un'auto nuova. Sì. Laura, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'opportunità. Ci dica tutto. Allora, dunque, mio marito ha lavorato come dipendente per 15 anni e dall'anno scorso, da quest'anno sostanzialmente lavora come contribuente minimo, quindi con un reddito basso. Mm-hmm. Ecco, allora il nostro quesito era questo: avendo in programma di acquistare quest'anno un'auto nuova, perché la vecchia purtroppo ha tanti anni, certo, volevamo chiedere, sicuramente il nostro reddito non risulterà congruo perché la macchina ha un certo costo rispetto al piccolo reddito di quest'anno che risulterà quest'anno, la possiamo fare grazie ai risparmi fatti negli anni scorsi. Ecco, quindi volevo chiedere se con il redditometro arriverà un accertamento, cioè un avviso in cui noi poi se è anche una sorta di automatismo quello che si crea, no? Ha ragione Laura. Tra l'altro adesso quello che anche vorrei dire non è che questa nuova misura ha lo scopo anche di diventare il deterrente del rilancio dei consumi, Nicola Forte, perché altrimenti sarebbe pure un cane che si morde la coda, anzi un gatto, perché il vero detto è sul gatto e non sul cane, perché voglio dire, tutto immagino che pensi il governo tranne che limitare anche gli acquisti da parte delle famiglie. Nicola Forte. Certamente, soprattutto in periodi difficili come questo, periodi di crisi. Però la domanda di Laura insomma è pertinente. Assolutamente. Direi, come appunto abbiamo anticipato, dobbiamo anche tranquillizzare gli operatori, i piccoli radioascoltatori, perché Dobbiamo considerare che all'interno della manovra estiva, prima abbiamo citato il decreto legge 78, è stato inserito uno strumento che consente al fisco di effettuare verifiche e controlli mirati. È possibile che la persona interessata venga invitata dal fisco, per questo la norma prevede un contraddittorio obbligatorio, quindi non ci potrà essere un meccanismo di rettifica del reddito automatico, ci potrà essere un meccanismo che determina, comporta una convocazione, un invito alla persona interessata, il quale in quella sede avrà la possibilità di spiegare, di dimostrare che quell'acquisto, quell'autovettura è avvenuto, intanto appunto è stato possibile in quanto sono stati impiegati dei risparmi, degli accumuli degli anni precedenti. Infatti, anche perché la condizione reddituale del marito di Laura è cambiata nell'ultimo anno, ma questo non significa che non si siano potuti mettere da parte e accantonare risparmi negli anni precedenti. Non è che certamente il fisco va a contestare questo. Certo che però il dubbio che viene, comunque la perplessità forte, è che se il principio è questo, quanta gente verrà chiamata a spiegare la sua condizione, chissà quante perdite di tempo anche, oppure insomma magari anche l'accertamento, questo contraddittorio, avverrà in modalità semplice. Diciamo che anche le convocazioni, gli inviti dovranno essere mirati. Diciamo, questa è un po' tutta la filosofia anche di questi strumenti di accertamento, nel senso che l'implementazione delle varie banche dati, dei dati dello spesometro, dell'utilizzo del redditometro, la raccolta di questi dati dovrebbe avvenire in maniera molto mirata, proprio perché storicamente è stato dimostrato che la raccolta di dati completi, ma sotto il profilo numerico, diciamo presenti nelle banche dati in maniera forse esagerata, si è dimostrata essere stata in passato poco efficace per l'attività di accertamento. Quindi il tutto dovrebbe essere in un'ottica, in una logica molto più mirata. La cosa importante da ricordare è che già l'Agenzia delle Entrate, e probabilmente questo lo ribadirà in occasione di Telefisco, ha spiegato a proposito dell'onere della prova, quindi della capacità di spiegare al fisco che quell'acquisto intanto è stato possibile perché c'erano degli accumuli di risparmi negli anni precedenti, probabilmente non sarà sufficiente spiegare al fisco che quell'acquisto di 30, 40, 20 mila euro è stato possibile perché avevo dei risparmi in quanto negli anni precedenti avevo dei redditi capienti, sufficienti. Dovrà dare probabilmente delle indicazioni più circostanziate. Faccio un esempio. Se nell'anno Mi fa venire proprio totalmente voglia di non ristrutturare più casa, forte già questa mattina con tutto questo. Però, certo, ad esempio, se io l'anno scorso avevo un reddito di 50, 60, 70 mila euro, e quindi posso spiegare che ho risparmiato una somma che ho impiegato nell'anno 2011, l'obiezione che potrà essermi mossa è che è vero che nel 2010 ho guadagnato 70 mila euro, ma è anche vero che nello stesso 2010 una buona parte di quel guadagno, di quei 70 mila euro, l'ho utilizzato per le spese correnti e quindi verificare un disallineamento rispetto al saldo che ho sul conto corrente al 1 gennaio. Per esempio, se ho guadagnato l'anno scorso 70 e ho speso 60, il saldo dovrebbe essere 10. Se sul conto corrente all'inizio del 2011 ho 40, ho una differenza di 30 che non quadra. E questo implica l'accertamento, Marco Bellinazzo. La convocazione dell'Agenzia delle Entrate, perché poi è interessante anche capire questo effettivamente accertamento, allora, come si svolge. Innanzitutto, per fare un riferimento a quello che diceva Nicola Forte, l'Agenzia delle Entrate potrà valutare e prendere in considerazione i saldi del conto corrente a inizio e a fine anno e quindi quel tipo di valutazione che appunto indicava Nicola sarà molto semplice per l'agenzia. In ogni caso, se In caso di scostamenti minimi, questo per tranquillizzare un po', è chiaro che l'agenzia non convocherà i contribuenti, si dovrà superare una certa percentuale, il 20% e qualcosa in più per far scattare il campanello d'allarme. L'agenzia a quel punto convoca il contribuente in un contraddittorio informale, in un colloquio, usiamo l'espressione che preferiamo, in ogni caso dà la possibilità al contribuente di fornire delle spiegazioni, e quando il contribuente fornisce spiegazioni che l'agenzia riterrà sufficienti, è chiaro che tutto finisce lì e ci sarà certo una perdita di tempo, ma ulteriori conseguenze non ce ne sono. Quando invece le spiegazioni non saranno ritenute idonee, partirà la fase diciamo di vero e proprio accertamento, che dalla prossima estate avrà anche carattere esecutivo e quindi sarà particolarmente incisivo per i contribuenti. Però c'è una sorta di filtro preventivo che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, lo ha annunciato il direttore Befera più volte, c'è un software sul sito appunto dell'agenzia al quale i contribuenti potranno accedere, una sorta, mettiamola su un piano giocoso, di videogame, in cui potranno inserire i propri dati di reddito, inserire la propria condizione familiare e la propria residenza, e sulla base di questi dati inseriti ci sarà un semaforo verde piuttosto che rosso, o addirittura in alcuni casi scatterà un allarme generale e quindi il contribuente potrà già sapere se la propria situazione è a rischio di invito da parte dell'agenzia o se invece può dormire sonni tranquilli. Infatti. Tra l'altro non abbiamo spiegato che cosa succede a chi proprio non riesce a dimostrare la coerenza della sua posizione, perché così alla fine l'abbiamo definita, e visto che ne abbiamo parlato anche all'inizio, in realtà non abbiamo spiegato neanche bene qual è poi la nostra relazione, quella che si deve instaurare fra appunto noi come contribuenti e il negoziante quando andiamo a fare un acquisto che ha questo importo superiore a 3.600 euro, perché anche quello è un passaggio fondamentale. Abbiamo anche Giuseppe da Livorno nel frattempo da sentire. Giuseppe, buona giornata. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per avermi chiamato. Grazie a lei. Posso? Certo. Dunque, è analogo un po' a quella domanda che ha fatto il precedente vostro interlocutore, la signora che, sì, che deve comprare l'auto. Sì. Io per buona abitudine, visto il mondo come va, aiuto sia mia figlia e i suoi figli, quindi nipoti, naturalmente una figlia unica, e quando ci hanno da fare una spesa di un certo rilievo, prendiamo il caso appunto della macchina o di un qualche cosa che insomma rappresenta un certo importo, intervengo io, perché grazie al cielo io ho avuto più fortuna di mia figlia, sono della vecchia generazione, io ho 80 anni, quindi ora sono in pensione. Beh, Giuseppe, complimenti per la vivacità della voce, perché sì, pensavamo grazie. Molti meno. E dunque, che ho fatto? Sono abituato a risparmiare, spengo le luci in casa dove non sono nella stanza. E comunque in sostanza sono della vecchia guardia. C'è questo travaso del suo denaro verso sua figlia per aiutarla. E questo inguaia sua figlia, dice lei? Nel momento in cui o il nipote oppure mia figlia in maniera diretta chiedano aiuto a me, o sono io che capisco che hanno bisogno di aiuto, che faccio? Intervengo io. Se ci avete da cambiare la macchina, vabbè, o che la arriva il nonno, arrivo io. Insomma, questa è la regola. Insomma, credo, generale. Capire se sua figlia ha ovviamente un reddito, come dire, che non è coerente rispetto a tutte le spese che fa e all'interno delle quali interviene lei, insomma, se sua figlia potrebbe essere oggetto o soggetto appunto passibile di accertamento. Giuseppe, aspetti lì, perché noi adesso abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, vediamo se magari i nostri interlocutori, i nostri ospiti di stamattina hanno bisogno di altri chiarimenti da parte sua, o se basta rendere tracciabili tutti questi spostamenti appunto di denaro per dimostrare che legittimamente Giuseppe aiuta la figlia. Insomma, non è anche tra l'altro una prassi inedita nel nostro paese, per fortuna, dico io, e allora su questi punti arriviamo tra poco. E allora andiamo ad analizzare il caso del nostro ascoltatore di Livorno. Nicola Forte ha sentito, chiaramente Nicola ci stava raccontando di un'abitudine che è molto diffusa fra i genitori italiani, che proprio soprattutto in questo momento, in questa fase storica del nostro paese, per fortuna che ci sono loro che aiutano appunto molto le nuove generazioni, e però dice non è che questa mia abitudine, che mi sembra sana, mi sembra il minimo sindacale che un genitore aiuti i figli, rischia di mettere addirittura in difficoltà mia figlia, che non potrà dimostrare appunto la coerenza fra il suo reddito e le spese che effettua. No, direi di no, con qualche accortezza sicuramente la figlia non avrà problemi, ove dovesse essere invitata a fornire spiegazioni dall'ufficio, indicherà chiaramente che quella spesa, l'acquisto dell'autovettura, intanto è stata possibile in quanto nonostante il suo reddito non consentisse un acquisto così importante è intervenuto il genitore, il papà. È evidente che sotto questo profilo sarebbe importante assumere un comportamento coerente, corretto e prudente. Ad esempio potrebbe essere più che opportuno, proprio per fornire questa spiegazione al fisco, effettuare un movimento tracciato, un bonifico dal conto corrente del padre a quello della figlia. L'aspetto che però occorre evidenziare è che mentre con un comportamento prudente, accorto, problemi di sorta non dovrebbero verificarsi, qualche problema potrebbe averlo il papà, nel senso che l'indagine o la preoccupazione, o come abbiamo detto la lente di ingrandimento del fisco, potrebbe essere puntata proprio sul padre, sul papà che ha trasferito questa somma di denaro. Cioè l'interrogativo a questo punto diventa: ma visto che c'è stato questo trasferimento di somma di denaro per aiutare tua figlia, pari a, supponiamo, 20-30 mila euro, la tua situazione in termini di dichiarazione di reddito è coerente con questo trasferimento di somma di denaro oppure no? Questo è l'interrogativo, quindi bisogna fare una verifica ad ampio raggio. Il problema potrebbe riguardare non solo la figlia, ma potrebbe spostarsi sul genitore. Però se Giuseppe dimostra che magari ha un risparmio, adesso do delle cifre molto rotonde per capirci, Nicola Forte, ha 100.000 euro da parte, ne dà 20.000 alla figlia, se in automatico risulta che da quella cifra ne sono diventati 80.000, non avrà problemi a dimostrare che ha attecchito il suo risparmio personale per dare questo sostegno alla congiunta, e lì dovrebbe finire l'accertamento. Potrebbe essere... è così automatico, eh? Potrebbe essere chiamato a spiegare, certo, il risparmio di 100.000 come lo ha acquisito nel corso degli anni. Supponiamo che ma di quanti anni indietro ci chiede anche l'aggiornamento il fisco? Perché effettivamente qua molti ascoltatori ci chiedono anche questo, perché molti dicono: ma insomma, a distanza di anni come faccio a dimostrare come ho accumulato anche il mio risparmio? Non mi ricorderò allora più nulla. Dobbiamo distinguere, perché il fisco può rettificare le dichiarazioni al massimo andando 4 anni indietro, e quindi la capacità di rettifica del fisco è limitata temporalmente, non può essere infinita, ma posso avere io interessi a dimostrare che quella somma mi deriva da tanti anni indietro, perché mentre nei 4 anni precedenti il fisco può verificare che le mie dichiarazioni dei redditi sono piuttosto basse, i redditi che ho dichiarato sono limitati, io posso dimostrare al fisco che 6, 7, 8 anni prima ho interrotto ad esempio il mio rapporto di lavoro con il mio datore di lavoro, ho conseguito una somma importante, pensiamo al trattamento di fine rapporto, che però non riguarda gli ultimi 4 anni, riguarda 6, 7 anni indietro, e quindi poi giustifico quel risparmio effettuato in prossimità dell'acquisto. Fermo restando, come dicevo, che il fisco può rettificare al massimo 4 anni precedenti. Allora, non abbiamo analizzato adeguatamente tutta la parte precedente a tutto questo accertamento, cioè l'abitudine di spesa, il comportamento di spesa. Marco Bellinazzo, allora da maggio che cosa succede? Vado in un negozio e devo rinnovare l'arredamento della mia abitazione, chiaramente spendo qualcosa di più di 3.600 euro. Che cosa devo chiedere al commerciante? Anzi no, che cosa mi chiede il commerciante? È l'inverso. Diciamo che dal punto di vista del compratore c'è soltanto un adempimento in più, quello di fornire il codice fiscale, perché e poi sarà compito a partire dal 2012, a maggio 2012, dei rivenditori quello di trasmettere e comunicare al fisco tutti quelli che sono stati gli acquisti superiori di 3.600. Questa comunicazione farà sì che nella mia scheda personale, quella di cui abbiamo parlato all'inizio, alla quale il fisco può accedere attraverso le sue banche dati, risulterà che io ho fatto in una certa data un certo acquisto di ammontare superiore dati a 3.600. Dati che confluiscono all'anagrafe tributaria, all'anagrafe tributaria, e quindi sono accessibili attraverso tutte le banche dati di Perseo, Serpico, di cui abbiamo parlato. Quindi diciamo che dal punto di vista dello spesometro c'è questo tipo di impatto molto limitato nell'adempimento del compratore e quindi del singolo contribuente. È chiaro che a monte c'è invece il lavoro dell'agenzia che prepara queste banche dati, che riceve questi dati e quindi ha un identikit sempre più preciso di quelle che sono state le mie spese. a quel punto confronterà queste spese con il mio reddito dichiarato, e questo è il vero problema, questo è il rischio che si può creare con il redditometro, con il reddito presunto, perché il redditometro con un'ottica simile agli studi di settore, anche se poi l'Agenzia delle Entrate si arrabbiano quando si fa questa equiparazione, questa esemplificazione, prevede che per un certo contribuente che ha un certo nucleo familiare e vive in una certa zona, diciamo, si deve presumere un certo livello di spesa corrente. Certo, perché c'è anche la territorialità da tenere in considerazione. Esattamente. E dunque io potrei vedermi imputato un certo livello di spese tracciabili, un certo livello di spese presunte, sommate le quali si potrebbe verificare quella incoerenza con il reddito che ho dichiarato superiore al 20%, e da lì l'iter dell'invito a spiegare e evidentemente poi del contraddittorio vero e proprio qualora le mie spiegazioni siano ritenute ingiustificate. Allora, l'ultima domanda di oggi, Mauro da Brescia. Mauro, rapidissimo, perché tra l'altro la sua la vedo anche un po' complicata, speriamo di esaudire la sua richiesta lo stesso. Grazie, buongiorno. Buongiorno, spero di essere rapido. Allora, io mi chiedevo se magari la cattiva abitudine di non depositare dei soldi in banca per la paura che il conto corrente in realtà renda meno di quello che deposito. Metterla sotto il materasso, ce lo chiede anche un altro ascoltatore di Roma. Li metto sotto il materasso, come faccio poi a giustificare questo tipo di scelta? Cioè, è una scelta legittima, però... difficile. Mauro, andiamo subito a Nicola Forte. Ma certo, è chiaro che l'Agenzia delle Entrate sotto il materasso non va a controllare, però comunque chiede delle spiegazioni. E quali sono le sanzioni per chi viene palesemente ritenuto non coerente nel comportamento, Forte? Allora, nel momento in cui la somma non è sul conto corrente, è evidente che l'ascoltatore avrà difficoltà a spiegare come è stata finanziata quella spesa. Anzi, sotto il profilo operativo pratico, gli italiani forse potrebbero essere indotti a cambiare qualche abitudine, un utilizzo maggiore di carta di credito, bonifici, quindi strumenti che consentono appunto di tracciare questi movimenti e quindi poi utilizzarli in proprio favore, spiegando al fisco esattamente le movimentazioni del denaro. Quindi sicuramente l'ascoltatore dei problemi ce le avrà. Allora, ci dobbiamo fermare perché abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, però è proprio un bell'argomento e vedo che ha stuzzicato molti ascoltatori. Voi continuate a scriverci perché io poi giro le vostre domande a Nicola Forte, che come sempre mi aiuta a rispondere a tutti. Tra l'altro c'è anche la possibilità di mandare delle domande a Telefisco, Marco, sì, domani, c'è, no? La possibilità con un SMS di mandarle, tra l'altro collegandosi al sito del Sole 24 ore ci sono tutte le informazioni disponibili. Benissimo. C'è su Radio 24. Insomma, l'informazione che diamo è massima e siamo qui per chiarire tutti i dubbi. Adesso la nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. L'INPS ci continua a spiegare le parole e gli strumenti della previdenza. Oggi, documenti in possesso del richiedente dopo la presentazione della domanda via web. Dopo aver inviato la domanda, è possibile stampare la ricevuta di prestazione, in cui sono evidenziate le integrazioni fatte dal cittadino e le ulteriori informazioni ricavate in automatico dalla procedura, e il modello DS21 telematico, che consente di verificare la correttezza dei dati immessi. Quest'ultimo sarà conservato a cura dell'utente e non dovrà essere presentato all'istituto. Il sistema consente anche, accedendo alla apposita opzione, di simulare il calcolo dell'importo della prestazione e di verificare lo stato delle domande in corso. Grazie a Marco Bellinazzo e Nicola Forte per essere stati con noi a divertirci sul funzionamento del nuovo spesometro. Grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione. Fabio Cantadori in assistenza tecnica e Salva Danaio torna domani. Buona giornata. Salva Danaio.